con l'autrice e attrice Arianna Dell'Arti per parlare del nuovo appuntamento con Ugo. Summer Ugo, volume 6, ai Giardini della Filarmonica a Roma, all'interno della Esatto. rassegna Solisti del Teatro, il prossimo 28 agosto. Arianna, ben trovata. Ciao, buongiorno. Raccontaci un po' di questo volume 6. Ah, ma questo volume 6 innanzitutto è proprio nuovissimo perché abbiamo fatto un paio di volumi in cui erano, diciamo che abbiamo fatto quasi dei best of, tranne l'ultimo in cui c'erano, però questo è proprio tutto nuovo e ci sono anche delle cose, diciamo, non solo comiche, e anche, diciamo, un po' più di spessore per certe cose. Siamo molto felici di andare in un posto così prestigioso come i Giardini della Filarmonica. E speriamo che il 28 agosto siano tutti tornati a Roma e abbiamo tutti tantissima voglia di uscire e di venire a vederci, che non ci siano i monsoni, perché ormai qua l'Italia è diventata un paese tropicale e la sera piove Sì. sempre. Senti, Però devo dire che dalle previsioni, come altre come sì. volte ci saranno momenti musicali anche. Assolutamente ci sono le Nocioles, che ormai sono delle nostre proprio affiliate, sono la Tizi e Marian Bandic, e dunque ci sarà un momento musicale anche con loro, e siamo 200.000 sul palco, naturalmente, ripeto, perché non capisce la prima volta che sente cosa facciamo, diciamo, è un varietà composto da una dozzina di pezzi, ognuno fa un pezzo sotto gli 8 minuti, generalmente sono tragicomici, comici, diciamo così, che analizzano un aspetto della vita, qualcuno, insomma, si parla un po' di tante tematiche, e siamo in scena, diciamo, da un anno che andiamo in giro per Roma in vari posti, e sta avendo un sacco di successo, e noi, per noi questa cosa è sorprendente. Siamo meravigliati di questo, però evidentemente è sempre più diverso, torna. Abbiamo fatti di Facebook, eccetera. A proposito di cast, ho visto che siete più di una dozzina sul palco. Siamo tante, sì, ogni volta io mi dimentico, dico quanto siamo, perché ogni volta abbiamo degli ospiti da fuori che vengono, assegniamo i pezzi in base anche al contenuto, poi ci sono delle autrici con le quali lavoriamo spesso perché ci piace proprio come scrivono, per esempio la Balassone oppure Veronica Raimo, insomma siamo molto poi, c'è cioè Luisa Merloni che ci piace tantissimo, che è una grande attrice, che scrive anche molto bene, insomma è bella questa cosa, stiamo sempre alla ricerca di autrici in giro per l'Italia e naturalmente invitiamo chi vuole pensare di partecipare a venire a vedere una serata, perché se vuole scriverci un pezzo, noi siamo felici, non, diciamo, non garantiamo la messa in scena, perché poi ci sono tanti paletti, insomma, tante questioni, però non ci piace leggere cose di altre. Praticamente non c'è stata quasi pausa estiva. Come ricomincerete adesso, subito dopo l'estate? Mi sa che è tutto un continuo. Per me non parlo per il gruppo, parlo per me, è un po' la prima data del nuovo anno, perché come quando si Sì. esce l'estate, si torna a scuola, il nuovo anno è un po' a settembre, no? Per me è un po' questo, è anche un po' prestigioso, per cui va benissimo, un nuovo volume e va benissimo. Poi non lo sappiamo, abbiamo tante offerte, diciamo che non più tanti, dobbiamo valutare dove andare, cosa fare, vorremmo anche spostarci un po' da Roma, andare a farlo fuori, bisogna vedere le condizioni, perché naturalmente siamo tante, dunque non è proprio uno spettacolo, diciamo, low budget, Sì, sì, ecco. sì. Senti, Però insomma ci stiamo muovendo, ci chiamano, vediamo cosa succederà. quindi tanti nomi e tanti luoghi in cui potreste essere, questo si sta Sì, non lo posso sviluppando. fare perché siamo ancora, certo, naturalmente sì, ci hanno chiamato varie persone che sono interessate a portare il progetto nel loro luogo, dico luogo mi tengo veramente vaga. E adesso vediamo che succede, gli offri di più, proprio denari, no scherzo. Senti Arianna, No, perché il lavoro dietro è tanto. sì. Dimmi. Anche al di là di Ugo, cosa prevede la tua nuova stagione? Ah, guarda, allora io no, già comincio a prendere un po' di date per settembre, ottobre, novembre in giro un po' per l'Italia, sto scrivendo, ma è un anno che scrivo un monologo, vediamo se riuscirò a finirlo. E dunque mi piacerebbe portarlo in scena, non so quando, non so come, vedremo, e poi dovrei, insomma, sai che io faccio anche cinema e dunque forse dovrò ricominciare a fare un po' la regista, mi piace tanto, è uno dei miei preferiti, vediamo che succede, se è vero, e poi provino, insomma. Io sono nata precaria e ci sono anche molto volentieri in questo mondo del precariato. No, veramente, credo che sia una delle poche persone che non vuole assolutamente avere un lavoro fisso, non lo voglio. Dunque, ti so dire per un mese, per settembre-ottobre cosa faccio? Rifaccio un corso di aiuto in guida, dunque se qualcuno vuole partecipare ora lo metterò su, lo farò a Milano. E poi andate, Milano, Torino, insomma. Bene, bene. Andate in giro, venite sulle nostre pagine Facebook, Lugo, la mia, la tua, tutti. Perfetto, allora i riferimenti già li hai dati, ricordiamo l'appuntamento con Summer Ugo, volume 6, ai Giardini della Filarmonica a Roma, all'interno della rassegna Solisti del Teatro, il 28 agosto, un abbraccio e un in bocca al lupo ad Arianna Dell'Arte. Prenotate perché prenotate che è meglio. Ok. Siamo tutti i riferimenti, li trovate. Bene. Va bene. Arianna, un bacio e a presto. Ti abbraccio, ciao Federico. Ciao. Ciao.